La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Quando l'acqua della fontana tornerà al sole. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Ai confini di un grande bosco, nell'isola di Hycnos, si trova un'isolotta, separata da un piccolo tratto di mare. Nel tempo in cui accadde la storia che vado a raccontarvi, i suoi abitanti vivevano nel paese di Sulchi. Molti erano pescatori e salinieri. Altri si recavano nella grande isola di Hycnos per lavorare nelle miniere di carbone, ricchi giacimenti che furono usurpati con l'inganno dai conquistadores, di cui si diceva che fossero pirati senza scrupoli e spietati che sfruttavano i minatori con il misero compenso giornaliero di un sacchetto di carbone. Un po' di quel carbone veniva messo da parte e venduto al mercato. Il resto serviva per difendersi dal freddo durante i mesi dell'inverno. Tra i minatori di Sulchi c'era un ragazzo orfano di padre e di madre, il cui nome era Antinoc. I suoi genitori erano morti in seguito ad un tragico incidente accaduto in miniera. Il padre di Antinocco picconava il carbone nelle profondità della terra, mentre la madre lavorava alla cernita del minerale estratto. Dopo la morte dei genitori, Antinocco, nonostante fosse ancora un bambino, non ebbe altra scelta che lavorare in miniera. Antinocco era un ragazzo davvero bello. Molti maligni in paese si chiedevano come fosse possibile che da una famiglia di poveracci fosse venuto fuori un figlio così speciale, sano e forte. Il giovane minatore aveva un viso dolce, dominato da due occhi azzurri simili al colore del mare. Quando sorrideva, i suoi denti sembravano un gregge di pecore, candide, e i capelli erano lucidi come ali di corvo. Le fanciulle del paese impazzivano per Antinocco, nonostante egli fosse povero, e facevano a gara per mettersi in mostra. Ma la preferita di Antinocco era Nausicaa, figlia di pescatori benestanti. Anche lei era bella davvero. Il suo profilo mostrava l'origine d'oltremare, slanciata con i capelli scuri e ricci che teneva sempre raccolti per pudore. I suoi grandi occhi erano del colore della terra bagnata, sostenuti dagli zigomi ben pronunciati. Portava una fronte alta, ma non si mostrava mai altezzosa. Antinocco e Nausicaa si conoscevano sin da bambini. La casa della ragazza dominava la piazza del paese e stava proprio accanto alla fontana del sole. Quando Antinocco accompagnava la madre per attingere acqua alla fontana, Nausicaa stava proprio lì ad attenderlo per giocare insieme. Così tra loro nacque una grande amicizia e con il passare degli anni fu inevitabile che i due si ritrovassero innamorati. Un giorno Antinocco scolpì con un'ossidiana una frase sulla pietra grande posta accanto alla fontana del sole. Quando l'acqua della fontana tornerà al sole, il nostro amore finirà. Era quello un pegno di fedeltà che sarebbe dovuto durare per sempre. Ma i genitori di Nausicaa avevano altri programmi per la propria figliola. Antinocco era un povero minatore che viveva in una capanna ai margini del paese di Sulchi, mentre Nausicaa era figlia di pescatori benestanti e, secondo certe regole non scritte, i due mai avrebbero potuto sposarsi. Cosicché Nausicaa venne promessa sposa a sua insaputa al giovane Olinto, un bravo figliuolo appartenente ad una famiglia di ricchi pescatori che viveva nella grande città di Castello. Tanto meno sapeva di quella promessa di matrimonio Antinocco. Il ragazzo, come tutte le mattine all'alba, si recava in miniera e doveva attraversare il paese, passando proprio accanto alla fontana del sole. Dopo aver superato la fontana, Antinocco sentiva il cigolio lento di una finestretta che si apriva solo un poco, come quando si scruta il passaggio dei forestieri. Era quella la finestretta di una casa posta vicino alla fontana, e dietro quella fessura stavano gli occhi di Nausicaa a spiare il suo bell'Antinocco. Lui, ovviamente, sapeva che fosse lei e subito si sentiva come sospeso nell'animo felice, ma non si voltava a guardarla perché non gli era permesso. Rideva in cuor suo e questo dava al giovane minatore una gioia grande che gli lasciava sopportare il lavoro in miniera. Ma, ahimè, quando sopraggiungeva la sera e Antinocco tornava a casa sfinito e curvo per il troppo lavoro, con in spalla il sacchetto di carbone guadagnato, il viso sporco di fuliggine e i vestiti insozzati di carbone, pareva che il tempo fosse passato rapido sopra di lui, rendendolo già vecchio, e per la troppa stanchezza egli non riusciva a pensare alla sua Nausicaa. Poi venne quel triste giorno in cui Antinocco seppe che Nausicaa era stata promessa sposa al giovane Olinto, senza che lei potesse decidere su quel fidanzamento. Fu lei stessa a dirlo ad Antinocco, una mattina in cui s'era recata, come al solito, alla fontana del sole. I due si amavano, certo, ma era inevitabile che lei andasse sposa a un benestante, perché da sempre un povero non poteva che offrire altra povertà. E questo Antinocco lo sapeva bene. Ma Nausicaa si rifiutava di rinunciare al suo amore per lui. Antinocco, seppure con dolore, tentò di convincere Nausicaa che doveva accettare quella proposta. Egli l'amava davvero e desiderava la sua felicità. Ma Nausicaa non volle ascoltarlo. Si infuriò assai. Si sentì tradita nel suo orgoglio, perché per lei l'amore doveva stare al di sopra di ogni cosa e a qualunque prezzo. E pronunciò con gli occhi da guerriera, ma che chiedevano pietà, quelle parole terribili che chi è amato non vorrebbe mai sentirsi dire. Tu non mi ami. Antinoco. Tu non mi hai mai amata. E con il viso rigato dal pianto, Nausicaa scappò via verso casa, senza voltarsi indietro. Antinoco rimase lì a guardare la sua Nausicaa mentre scompariva dietro l'uscio di casa. Poi sentì sbattere forte la porta e fu come se si fosse chiuso per sempre il loro amore. Al povero minatore non restò che chinare il capo e tornare nella sua capanna. La vita doveva comunque continuare. Antinoco lavorava così tanto che, con il trascorrere degli anni, seppure egli fosse ancora pieno di vigore, sentiva che il suo corpo cominciava a non reggere più il lavoro in miniera. «Io sono ancora giovane e forte. Perché devo gettare via la mia vita sottoterra, a picconare e spalare carbone per arricchire i padroni conquistadores? E per cosa, poi? Per una miseria. Torno a casa ogni sera stanco e sporco, puzzo di sudore come una bestia da tiro, e la mia paga è questo sacchetto di carbone che porto in spalla. Ogni sera, al rientro dalla miniera, Antinoco ripeteva tra sé questi pensieri, ma sapeva, come lo sapevano tutti i suoi compagni di miniera, di non avere altra scelta per sopravvivere, perché quello era il suo destino e niente e nessuno poteva cambiarlo. Passò altro tempo e un giorno, dopo aver faticato in miniera e il sole era tramontato, mentre Antinoco tornava a casa con il solito sacchetto di carbone sulle spalle e la lanterna spenta in mano, d'improvviso vide un grosso coniglio grigio che quasi si confondeva con il buio. Lo vide attraversare rapido il sentiero per poi fermarsi di colpo e tornare indietro, ma poi rispuntava e riattraversava il sentiero e di nuovo si fermava e tornava indietro, e così per parecchie volte. Quel grosso coniglio grigio era agitatissimo, come se non sapesse dove andare, finché si fermò proprio in mezzo al sentiero e rimase lì. Si vedevano le sue narici muoversi rapide su e giù annusando l'aria. L'animale voltava la testa rapidamente per scrutare in ogni direzione. Il respiro era rapido e affannoso. Il grosso coniglio grigio teneva, con una catenella al collo, qualcosa di cui non si capiva bene cosa fosse. Antinoco, che si era fermato di colpo, pensò: «Oh, che fortuna! Stasera mangio grosso coniglio in arrosto e patate!» Il ragazzo si chinò lentamente, prese una pietra e, cauto e silenzioso, si avvicinò all'animale con l'intenzione di catturarlo. Mentre si accostava, vide che l'animale continuava a guardare nervosamente quell'oggetto appeso al collo. Quando Antinoco fu a mezzo passo dal grosso coniglio grigio, strinse forte la pietra, sollevò piano il braccio e, proprio quando stava per colpirlo, quello levò rapido la testa verso Antinoco e lo guardò. D'improvviso si videro due occhietti neri e vispi che pareva sorvegliassero un musetto baffuto. Poco di sopra vi stavano lunghe ciglia che sbattevano rapide. «Davvero? Vuoi farmi del male, Antinoco?» domandò il grosso coniglio grigio. «Vuoi colpirmi con quella pietra?» Figurarsi lo stupore di Antinoco. Incredibile! Quel coniglio parlava, proprio come lui, e conosceva pure il suo nome. Lentamente Antinoco abbassò il braccio. «Lo so, lo so. Io sono un coniglio, e di solito i conigli non parlano. E ma che ci vuoi fare? Qui siamo in una fiaba In una fiaba gli animali e le cose parlano, altrimenti che ci imbamboliamo a fare? Antinocco teneva solo un mezzo soffio che quasi gli si strozzava in gola. Scommetto che stai per chiedermi chi sono. Beh, è facile risponderti. Io sono un coniglio grosso e grigio, come puoi vedere, e vado di fretta perché sono in ritardo. Ora ti chiederai che ci faccio io qui, vero? Antinocco non riusciva proprio a parlare. Non me lo chiedi? Perché non me lo chiedi? Devi chiedermelo, sai? No? Beh, ti capisco. Sei ancora tutto imbambolato. Ci penso io allora. E per forza, altrimenti da qui non mi muovo più. E non mi è consentito perdere altro tempo, perché ci sono tante visite urgenti che mi aspettano. Oh, mica ci state solo voi minatori ad essere poveri. Oh, allora, facciamo così. Io domando per te e poi io rispondo per me. Questa non l'ho capita, ma facciamo così. Sì, è giusto così, io spero. Va bene? Sì, dunque domanda. Che ci fai tu, grosso coniglio grigio, qui? Risposta. Mi manda lei. Domanda. Lei chi? Risposta. Lei, la madrina di tutte le fiabe. Domanda. E chi sarebbe questa madrina? Risposta. Mi dispiace, ma non posso dirtelo. Sappi solo che anche lei un giorno si perse nei suoi sogni. Insomma, lei mi manda per donarti un oggetto speciale. Il grosso coniglio grigio levò quel coso che teneva al collo e lo porse ad Antinocco. Ecco, tieni, lei ti manda questa. La riconosci? Certo che sì. E come? Questa è una lanterna da minatore. E guarda un po', e guarda un po'. Una lanterna da minatore, proprio come quella che usi tu per scendere in miniera. E che te ne faresti di un'altra lanterna identica alla tua? Niente. Sarebbe la risposta esatta. Però, vedi, caro Antinocco, questa che ho in mano non è proprio una lanterna come la tua. No? Questa ha grandi poteri. Poteri speciali, davvero. Perché mi guardi così? Antinocco deglutì ancora mezzo respiro e finalmente riuscì a parlare. Io non so se sono già tornato a casa a dormire e stia sognando. Questo non è un sogno, credimi. Lo interruppe il grosso coniglio grigio. Non lo è. Beh, forse è come dici tu, ma io sono un minatore e non ho tempo per queste storie di fantasia. Vero. E è questo che intendi dire? Fantasia? E tu credi che io non sia davvero qui a parlarti e farti dono di questa magica lanterna? Ti prego, finiamola qui. Sono stanco. Ho lavorato tutto il giorno a picconare, spalare carbone. Mentre me ne tornavo a casa, ti ho visto in mezzo al sentiero e pensavo che questa sera avrei mangiato coniglio arrosto con patate. Tutto qui. Dispiace anche a me. Ma questa sera non potrai mangiarmi in arrosto. D'accordo? Spiegò risentito il grosso coniglio grigio. Non importa. Mi accontenterò della cicoria bollita, come sempre, disse Antinocco. A quel punto il grosso coniglio grigio ci pensò su e disse: Senti, questa lanterna che ho in mano, la vedi? La vedo. E se la vedi vuol dire che puoi toccarla? Forse. Che forse? Tieni, prendila, è tua. Antinocco afferrò la magica lanterna. Vedi? L'hai presa. Dunque è vera. Esiste. Ora facciamo così. Portala a casa. Accendi lo stopino suo e chiedi tutto quel che desideri e vedrai se possiede poteri magici. Se non dovesse averne, tienila pure come riserva. Può sempre servirti. D'accordo, ci proverò, disse Antinocco. Bene. E anche questo è fatto. Ora devo proprio lasciarti, Antinocco. Sono già in ritardo come al solito e come al solito mi prenderò una bella sgridata. A proposito, quasi mi dimenticavo. Lo so, il solito smemorato. Dunque, stai attento. Sappi che quando la magica lanterna avrà consumato del tutto lo stoppino, essa non avrà più poteri. Ricordalo, mi raccomando. Niente stoppino, niente poteri. Vado, porterò i tuoi saluti a lei. Ciao ciao e buona fortuna! Dette queste parole, il grosso coniglio grigio scomparve nella boscaglia. Antinocco tornò a casa, pose la nuova lanterna sul tavolo, mangiò la sua cicoria bollita, che ovviamente non bastò a sfamarlo. Nel frattempo rimase a fissare la lanterna che il grosso coniglio grigio gli aveva donato. Sospirò, prese un fiammifero e accese lo stoppino. Subito si sentì una voce. «E finalmente! Ce n'hai messo di tempo ad accendermi!» «Chi sei?» domandò Antinocco. «Lascia perdere chi sono e dimmi cosa desideri! Sbrigati!» ordinò la voce misteriosa. Antinocco sollevò un sopracciglio di diffidenza, ma pronunciò comunque il suo desiderio. «Vorrei la tavola piena di tanto cibo arrosto!» «Cibo arrosto? Tanto arrosto?» «Sì, ma non di coniglio, se possibile.» «No, certo che no! Oggi niente coniglio arrosto!» disse la magica lanterna. E in un attimo la tavola fu imbandita. Antinocco rimase sbalordito e con la fame che si ritrovava divorò ogni cosa. Mai aveva mangiato tanto. Conclusa la cena, il minatore andò a dormire e proprio quella notte gli apparve in sogno il grosso coniglio grigio. «Allora, minatore, ci credi alle fiabe?» Antinocco sorrise. La mattina dopo Antinocco si svegliò e non andò in miniera. Raccolse le sue poche cose, accese lo stoppino della magica lanterna e chiese un bel po' di monete d'oro. Subito il sacchetto nel quale Antinocco di solito metteva il carbone della giornata fu pieno zeppo di monete d'oro. Lo prese, lo mise in spalla e se ne andò dal paese. Dopo qualche giorno Antinocco giunse nella grande città di Castello. Si comprò dei bei vestiti insieme ad una casa di gran lusso con tanto di servitù, che egli rispettava e pagava profumatamente. Ricco e benestante, Antinocco avrebbe desiderato avere una compagna, ma l'unica alla quale pensava era la sua Nausica, che però era andata in sposa al buon pescatore Olinto. «Oh, grosso coniglio grigio!» sospirò Antinocco. «Se solo ti avessi incontrato tempo prima, quando ancora io e Nausica giocavamo insieme intorno alla fontana del sole, allora sarei andato a chiedere la sua mano vestito da ricco principe e nessuno si sarebbe opposto.» Ma così non era andata. Forse perché così doveva andare, o forse perché stava scritto da qualche parte. Passato altro tempo e rassegnato a quel che non fu, una sera Antinocco provò a chiedere alla magica lanterna di trovargli comunque una compagna da amare, con la quale poter condividere le sue ricchezze e mettere su famiglia. Ma la magica lanterna rispose che c'erano desideri per i quali ella non poteva far nulla. Nessun potere magico era in grado di intercedere nelle questioni d'amore, e se lui desiderava una compagna da amare, doveva sbrigarsela da solo, e soprattutto avrebbe amato per davvero una donna all'infuori di Nausica? No, di certo. Per cui Antinocco dovette rinunciare. Trascorsero altri anni e Antinocco, invecchiando, cominciò a sentire terribili dolori nei suoi respiri, insieme ad una tosse cavernosa che non gli dava tregua. Chiamò un medico e questi, dopo averlo visitato, gli disse che aveva un principio serio di silicosi, la terribile malattia che i minatori si portano dietro per sempre. E fu allora che molti ricordi cominciarono ad affacciarsi nella memoria di Antinocco, soprattutto del tempo in cui era giovane minatore povero, cosicché decise di tornare al suo paese natio di Sulchi, almeno per rivedere i luoghi della sua infanzia e i vecchi amici. Il giorno dopo Antinocco chiese di preparare la sua carrozza e partì. Dopo giorni di viaggio egli arrivò a Sulchi. Tutti restarono a bocca aperta nel rivedere il vecchio amico minatore Antinocco, vestito da gran signore, scendere da quella carrozza dorata con il tiro di 8 cavalli. Quella sera stessa Antinocco volle festeggiare il suo ritorno in piazza, proprio intorno alla Fontana del Sole, e invitò tutti i compaesani. Ovviamente fu lui a sostenere ogni spesa. Furono imbandite tavolate di cibi d'ogni squisitezza, tranne coniglio arrosto o in altra salsa, ovviamente. Un'orchestrina suonava, tutti danzavano e ridevano. Antinocco accese lo stoppino della magica lanterna e donne e uomini e bambini ricevevano qualsiasi cosa desiderassero. Le miniere stesse furono acquistate da Antinocco, che le chiuse per sempre, e ai minatori diede tanto oro da riempire il sacchetto della misera paga, e grazie ad esso sarebbero vissuti come gran signori. Intanto si fece notte, tarda, e tra i tanti che parteciparono alla festa mancava colei che Antinocco avrebbe desiderato rivedere, anche solo per salutarla, Nausica. Ma Nausica quella sera non andò alla festa. Antinocco ricordò di quella scritta che lui aveva inciso per la sua amata sulla grande pietra posta accanto alla Fontana del Sole. Quando l'acqua della fontana tornerà al sole, il nostro amore finirà. E subito andò a cercarla. Ma la grande pietra non c'era. Com'era possibile? I paesani gli dissero che era stata portata via molti anni prima per far spazio ad un abbeveratoio. A quella notizia, gli amici di Antinocco videro il loro amico farsi improvvisamente triste, e dopo averne saputo il motivo, gli dissero che Nausica, appena sposata, era andata via da Sulchi con il suo sposo Olinto per trasferirsi nella grande città di Castello. Quando Antinocco lo seppe, divenne ancora più triste. Non riusciva a crederci. Aveva vissuto per tanti anni nella grande città di Castello e non aveva mai incontrato la sua Nausica. Il giorno dopo la festa, Antinocco volle subito tornare nella città di Castello. Il suo paese natio conservava troppi ricordi che facevano male al suo cuore. Inoltre la silicosi stava già mostrando gravi peggioramenti. Salutò i suoi vecchi amici e partì. Quando rientrò nella grande città, si rinchiuse nella sua bella casa, chiamò un notaio e dispose che tutti i suoi beni venissero donati, dopo la sua morte, ai figli dei minatori rimasti orfani nell'isola di Hycnos. E infine congedò tutta la servitù, consegnando a ciascuno sacchi pieni di monete d'oro. Trascorse un anno. Un pomeriggio d'inverno bussarono alla porta di casa. Chi poteva essere? Antinocco andò ad aprire e vide sulla soglia un uomo anziano. «Salute a voi, Antinocco», disse l'uomo. «Mi chiamo Olinto e sono il marito di Nausica. Posso entrare?» Antinocco accolse gentilmente Olinto. I due vecchi sedettero nel salone e sorseggiarono piano in silenzio un bicchiere di malvasia. Dopo un po', Olinto disse che Nausicaa aveva contratto il tifo qualche anno addietro e purtroppo non era sopravvissuta, ma prima di morire aveva lasciato una lettera da consegnare a lui. «A me?» domandò Antinocco. «Sì», rispose Olinto, e tirò fuori dalla tasca una lettera. La posò lentamente sul tavolo di fianco, poi si alzò e chiese di potersi congedare. Antinocco lo accompagnò alla porta e lo salutò con un cenno della mano. Richiusa la porta, tornò nel salone. Si avvicinò al tavolo dove stava la lettera di Nausicaa, ma non la toccò. Non volle aprirla. Forse c'erano parole che avrebbe dovuto ascoltare molti anni prima? Perché allora non lo aveva fatto, quando egli avrebbe potuto o dovuto? Il tempo, oramai, aveva perso entrambi, e il ricordo non aveva bisogno di altre parole per sapersi ancora amati. La loro vita era rimasta per sempre in quella piazza del paese di Sulchi, dove Antinocco e Nausicaa si rincorrevano intorno alla fontana del sole, ed erano belli così, belli a vedersi. Antinocco lasciò la lettera sul tavolo e andò a dormire. Con il passare dei giorni, la silicosi avanzò inesorabile. Antinocco rifiutò ogni cura, seppure i dolori fossero atroci, perché sapeva che quel male non dava speranza. Così rimase ad attendere che la morte compisse la sua opera. Quando Antinocco sentì che stava per lasciare questo mondo, prese un fiammifero e con la mano tremante accese la magica lanterna, ma vide che lo stoppino s'era quasi del tutto consumato, e un attimo prima che la fiammella si spegnesse, egli fece appena in tempo ad esprimere il suo ultimo desiderio. Appena l'ebbe fatto, la magica lanterna non ebbe più luce. In quel momento il vecchio minatore ricordò quel che gli aveva detto il grosso coniglio grigio, là, in mezzo al sentiero, e sorrise. Un attimo ancora, e con quel sorriso Antinocco distese il suo corpo mentre chiudeva gli occhi per il lungo sonno. Fece appena in tempo a chiedersi se quel desiderio di correre dietro alla sua Nausicaa si sarebbe avverato, di là, oltre la vita. Ma questo noi non potremo mai saperlo, almeno che non si creda ancora nelle fiabe. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net